Allora, ci siamo? Iniziamo? Ok. Allora, ciao a tutti e a tutte. Allora, c'è da dire questo a premessa. Un festival della letteratura davanti a una fabbrica in lotta è una cosa abbastanza tipica, quindi io non credo che vi sorprenderete se a presentare i libri non c'è un critico d'arte ma una sindacalista. Io però vi devo confessare che sono emozionatissima e anche abbastanza, come dire, intimorita da questo ruolo, e quindi speriamo che me la cavo. Detto questo, allora, il tema di stamattina è la deindustrializzazione, quindi diciamo così, la classe operaia sul viale del tramonto. Quindi non il mito, l'iconografia, il sol dell'avvenire, ma le macerie di quel che resta dopo 30 anni di arretramento della classe operaia di fabbrica. È il racconto di varie storie operaie dove i protagonisti, in fondo si può dire che hanno perso, però non sono vinti, attenzione, esattamente perché tramandano la loro storia. Sono storie di operai che hanno mandato i figli a studiare per fargli fare i lavapiatti a Bristol, che si ammalano mentre il mainstream parla della fine della classe operaia, o che accettano la buona uscita pur di uscire dalla fabbrica. Sono storie anonime, però collettive, che hanno un forte senso di identità operaia, di dignità, l'orgoglio di lavorare in acciaieria, di essere operaio, di essere figlio di operai, anche di essere figlia di operaia, se pensiamo a Simona Baldanzi che abbiamo ascoltato ieri. E guardate, quindi il tema è un po' la sconfitta, e il tema della sconfitta è un tema che è decisivo nella letteratura working class, ma perché è centrale nel movimento operaio, nel senso che se lotti metti in conto che puoi perdere. Il punto vero è come esci da una sconfitta, se la elabori, se la racconti, se la tramandi per rialzare la testa un minuto dopo o magari 10 anni dopo, cioè se non ti dai per vinto. A monte, quindi, però devi riconoscerla la sconfitta, perché negare la sconfitta, raccontarsi che hai vinto quando hai perso, è la cosa peggiore che può fare il movimento operaio. E se ci pensate, in Italia per esempio ci sono voluti 20 anni prima di riconoscere che alla Fiat a Mirafiori nel 1980 avevamo perso, mentre invece la cultura working class inglese, dopo la lotta dei minatori contro la Thatcher, fece proprio questo: elaborare la sconfitta, non negarla, e in qualche modo renderla eroica raccontandola. E ci sono due film in particolare della cinematografia working class inglese che io amo particolarmente e che parlano di questo. Il primo è Grazie signora Thatcher, la storia della banda di ottoni di una miniera dove i musicisti sono minatori, hanno perso, lo sciopero è finito malissimo, ma si ritrovano alla fine a suonare con le lacrime agli occhi alla Royal Albert Hall, vincono il primo premio e portano lì su quel palcoscenico i loro strumenti con le loro mani nere di carbone. E poi, forse questo lo conoscete di più, Billy Elliot, la storia del figlio di un minatore che trova il suo riscatto anche lui all'Accademia di Danza, ma non rinnega la sua storia operaia, anzi, appunto, anche lui la porta sul palcoscenico, addirittura nel Lago dei Cigni. Quindi è il racconto del riscatto, no? Di una rivincita che ha radici profonde nella storia dell'identità operaia. Vi ricordate invece in Italia, 1994, il film di Paolo Virzì, La bella vita? Anche in quel caso l'operaio delle acciaierie di Piombino in cassa integrazione all'epoca della privatizzazione, 30 anni fa, con la moglie cassiera Ferilli che si innamora del belloccio di un programma televisivo piuttosto squallido. Anche quello è il racconto di un paesaggio industriale in via di dismissione, no? Dove il profitto ha mortificato l'identità operaia, l'ha resa persino... piegato ancora la testa. E guardate, ce n'è uno in particolare, mi perdonerà se lo cito, perché secondo me uno di quei compagni fatti di acciaio che non è che gli piace tanto i riflettori e i palcoscenici, però vale proprio la pena di citarlo, si perdonerà. Qualche mese fa lui ha proprio scritto una lettera a Paolo Virzì, che tornava Piombino dopo tanti anni, e gli ha detto proprio: raccontala ora Piombino, 30 anni dopo. Paolo è un delegato storico della ex Lucchina in cassa integrazione da 8 anni, dalla cassa integrazione da pochi mesi è andato in pensione, è uno di quelli che insieme ad altri ha fondato il Camping Cig, hanno fatto lo sciopero della fame, si sono incatenati in piazza per tutte le volte che a quei compagni gli hanno detto che avevano vinto e loro non ci hanno creduto, perché intanto pezzo a pezzo gli smantellavano la loro storia. Prima la privatizzazione, appunto, poi lo spegnimento del forno 10 anni fa, poi gli imprenditori, i Re Brabbe, i Jindal, quelli che arrivavano come eroi sul cavallo bianco, quelli che ancora stiamo aspettando i piani industriali, non so se vi ricorda un certo Borbomeo. E alla fine, l'anno scorso, lo smantellamento addirittura dell'alto forno, no? Perché nemmeno il simbolo di quella fabbrica deve rimanere, bisogna cancellarla la storia operaia, nemmeno l'archeologia industriale è tollerata, no? Capite quanto i simboli dell'identità operaia sono forti, se poi ci si accaniscono così quanto fanno paura. Ecco, lo cito perché quella storia va proprio raccontata e mica chiedono la bella vita, gli basta una vita dignitosa, ha scritto Paolo in quella lettera, perché glielo leggi negli occhi che sono stanchi, che hanno perso ma che non vogliono essere vinti, perché hanno continuato almeno loro ad immaginare per la loro città una storia diversa da quella precedente, migliore da quella precedente, però che non cancellasse la loro identità, non cancellasse le loro lotte. Allora, e chiudo, ti dicono sempre, ci dicono sempre che dobbiamo resistere un minuto in più del padrone, verissimo, però ci dimenticano di dirti quanto è difficile tenere alta la testa quando ti licenziano via mail, quando ti tengono 15 mesi senza un centesimo, quando ti tengono 10 anni in cassa integrazione. Allora la letteratura, il cinema, la musica, l'arte working class servono anche a questo, cioè a ricostruire un immaginario collettivo che ti aiuti a tenere alta la testa. E guardate, quando hai vinto è più facile, la sfida vera è quando hai perso e devi raccontare appunto una sconfitta di persone che però non si vogliono dare per vinti. Come ha detto Ken Loach, di questo festival c'è sempre la possibilità e la speranza di sollevarsi come leoni dopo il sonno. Quindi, oggi, stamattina facciamo un viaggio che parte da Terni, la città, diciamo, fabbrica per eccellenza, passa per Piombino, appunto, Livorno, la Toscana delle miniere, la Maremma ribelle indomita, fa un giro anche con amianto nelle fabbriche tossiche del nord di Casale Monferrato e dintorni, e poi ritorna alla Spezia. È un viaggio nelle periferie operaie, ci ritroviamo l'identità operaia, l'orgoglio dei figli verso i padri, persino la bellezza della classe operaia, una classe operaia che profuma di ferro, come scrive Alberto di suo padre. Io adesso lascio parlare loro e i loro libri, nel senso che prima di dare la parola a ognuno di voi, leggo un pezzettino dei loro libri. Partiamo da Terni. E Eugenio Raschi all'Assai speciale ci ha lavorato per 20 anni più o meno. Nel libro c'è il racconto dell'acciaieria nudo e crudo, colate, carri ponti, siviere, parco rottami, il senso di appartenenza anche alla squadra, le rivalità, i pettegolezzi dentro la fabbrica. Dicono, sembra che stai in trincea, non in fabbrica. Vi leggo una parte sul finire del libro, che racconta un po' anche di qua, tutto sommato. Quasi 40 giorni sono passati, quanto una quaresima o una quarantena. 40 giorni dall'avvio degli impianti dopo la fermata estiva fino al primo giorno di sciopero, dopo che la trattativa era diventata insostenibile e non certo per colpa degli operai. La protesta è iniziata il 2 di ottobre. Uno sciame di gente rigettato fuori dalla fabbrica, diventata un formicaio sotto attacco. Siamo finiti in strada come dopo un terremoto, gli operai con le famiglie intere, tesi, nervosi, provati dalle estenuanti attese. Era accaduto lo stesso in tempo di guerra, nel 1944. Appena si era sparsa la voce che le truppe tedesche avevano minato lo stabilimento prima della ritirata verso il nord, l'intera cittadinanza era accorsa per difendere l'acciaieria e sta accadendo di nuovo, più o meno. È una guerra, sparata a colpi di tagli e licenziamenti. Il pericolo ci minaccia, è un'invasione straniera che attacca la nostra identità di popolo, di comunità legata alla fabbrica, la nostra fabbrica. Intanto buongiorno a tutti, i ringraziamenti sono dovuti per questo invito, per parlare di un libro che io ho scritto 10 anni fa, è un libro di pura narrativa, non racconto la mia storia è parallela a quella della fabbrica ma è diversa, ho scritto il libro quando ero già uscito dalla fabbrica da un anno, io ero insieme agli operai che erano in sciopero, la situazione potete immaginare. Siamo in un luogo che è un luogo di lotta, questa lotta Terni l'ha fatta nel 2014, ma l'aveva fatto in precedenza nel 2007. Terni è una città che ha visto smantellato sotto il silenzio di tutti tutto quello che era il prezioso patrimonio chimico. La chimica ternana è narnese perché poi io sono di Narni, a 10 km da Terni, ma era tutto un territorio che si basava sulla grande industria, sull'industria dello Stato, sulla Montedison, e è morta la chimica sotto silenzio, poi è arrivata la crisi dell'acciaieria. A Terni si è lottato nel 2007 non per una perdita di posti di lavoro, ma perdita di un materiale, che era l'acciaio magnetico, il lamierino, quello che si faceva per i motori elettrici. Quindi era una battaglia che guardava in futuro, perché deindustrializzazione, io la traduco con un messaggio molto semplice, è la morte di una fabbrica. E la morte di una fabbrica non è che avviene così, come un infarto, la morte di una fabbrica avviene lentamente. La morte di una fabbrica, nel nostro caso, nel caso della provincia di Terni, di un tessuto sociale. I sintomi sono quelli di una riorganizzazione, di un'ottimizzazione delle risorse, la cassa integrazione. Questo abbiamo vissuto a Terni nel 2013, nel 2014, e poi ti ritrovi fuori dalla fabbrica, ti ritrovi a lottare, ma c'è un punto di forza che hanno gli altri, è quello di dividerti, di lasciarti solo. A me è capitato come esperienza personale, ma non racconto questo nel libro. Nel libro racconto quello che tanti ritengono, no? Ci fa un pochettino la similitudine della pianta, rami secchi, se vogliamo salvare la pianta tagliamo i rami secchi e la pianta forse sopravvive. Io sposto questa similitudine a un corpo, perché il corpo operaio è amputato. Questo è successo a Terni. A Terni si è fatta questa decisione, siede una fabbrica di 2500 operai, io però ho fatto un conteggio e ho visto che 500 operai sono di troppo. Quindi è come dire a una persona, se vuoi lavorare ti amputo un braccio perché c'è un solo pulsante da spingere, quindi ti basta un braccio per andare avanti. Ci sono due pulsanti da spingere? Io ti lascio le braccia ma ti amputo le gambe, perché poi ti stai seduto e spingi per due volte. Questo è successo a Terni, questo io racconto nel libro, il pezzo che è stato letto è quasi alla fine, io però racconto dall'inizio, racconto non la vicenda di una persona ma la vicenda di una squadra di lavoro, quindi di 6 persone che si trovano di fronte a un bel enigma che gli hanno dato i padroni, chi praticamente decide le sorti della fabbrica. Su 6 persone, 4 lavoreranno e 2 andranno via. E queste 2 persone non si sa chi siano. La deindustrializzazione non è soltanto la perdita di una fabbrica o di un posto di lavoro, ma è anche la perdita di professionalità. A Terni questo è successo, quando raccontavo prima l'episodio del magnetico, quindi la perdita di una lavorazione importante, perché la ThyssenKrupp aveva altre 3 fabbriche in Europa, e una doveva, su 4, quindi una doveva poi essere chiusa. Quella ha deciso, il reparto che doveva essere chiuso è quello di Terni. Quella battaglia fu persa, fu una battaglia molto, molto pesante, con un mese di sciopero, ripeto, senza che in ballo ci fossero i posti di lavoro, quindi la lungimiranza di almeno per quello che diciamo così riguarda la classe operaia, quello di capire che è una fabbrica che si impoverisce tutti. E la perdita di quella lavorazione, la perdita di professionalità è il primo passo di una deindustrializzazione. A Terni c'è attualmente un'altra crisi, quella che è più evidente. Adesso l'acciaieria va avanti a colpi di cassa integrazione. Sono impianti che possono essere fermati, che possono lavorare su un mese, su 30 giorni, possono lavorare anche 3 settimane. Una settimana sta ferma e poi si ricomincia. E questo è impoverimento, questa è deindustrializzazione. Anche in questo caso si può parlare di una perdita perché i lavoratori che si trovano di fronte a dover, no, come interruttori, oggi ti accendo, adesso ti spengo, poi ti riaccendo, si creano dei problemi. A marzo di quest'anno in una ditta che ha un subappalto all'interno delle acciaierie, che svolge un lavoro che la mia ditta per quale io lavoravo, una multinazionale, ha, diciamo così, ha perso quel contratto, io sono una delle conseguenze, quindi io sono stato mi è stato tolto il lavoro proprio perché nei subappalti c'è una deindustrializzazione, perché c'è un impoverimento del lavoro. C'era un ragazzo, c'era un autista che aveva, parla al passato, 26 anni. Non era mai successo, io sono entrato in acciaieria dal 1991. Ne sono uscito nel 2013. Ho contato, finché sono stato dentro l'acciaieria, 11 morti. E da quando sono andato via, oggi, sono altri 4. L'ultimo è questo ragazzo che portava una paiola di scoria incandescente. Aveva 26 anni, quindi quando io sono entrato in fabbrica lui non era neanche nato. Io so quello che è successo, l'incidente che ha portato questa cosa qua. E quello che dico è che un effetto di lavorare a singhiozzo è anche questo. Per cui per 3 giorni i forni, nel caso di Terni, lavorano all'impazzata, poi stai fermo una settimana, non c'è un'ottimizzazione e in quanto a deindustrializzazione, io la vedo anche questa qua, deindustrializzazione è anche una perdita di professionalità. Quando raccontavo un po' la vicenda di Terni, per cui 500 persone dovevano andare fuori dal comparto produttivo, non si è detto vai tu perché non mi servi, non vai tu o l'altro. Era un numero, erano 600 persone. Non importava se erano operai specializzati, se avevano esperienza, se erano giovani, se erano vecchi, se ce l'avevano da 30 anni. Erano soltanto numeri. Deindustrializzazione è anche far sì che un operaio diventa un numero e non una professionalità. Le professionalità servono perché serve l'esperienza, perché un incidente che in 30 anni non capita mai, poi purtroppo capita, e se magari un ragazzo è giovane non si rende conto del pericolo e muore carbonizzato. Questo ragazzo è di origine equatoriana, si chiamava Sandro, veniva chiamato così Sandro, come questo nome, e lui si è trovato in una condizione tale per cui si è trovato con 76% del corpo con ustioni di secondo e terzo grado. E questo è anche per dire che la deindustrializzazione porta morte, la porta morte lenta. ThyssenKrupp era l'azienda per cui io lavoravo in subappalto, quindi non ero direttamente impiegato da loro. È un nome tristemente famoso per quello che era capitato, che è capitato il 6 dicembre del 2007. Lì forse ha fatto molto più notizia, chiaramente, giustamente, per cui 7 persone sono morte, proprio perché quell'impianto a breve, a un mese di distanza, sarebbe stato fermato. E questo è il prezzo che pagano le persone. Quando io prima citavo, no, la morte, il tessuto sociale come qualcosa di umano, perché poi la deindustrializzazione viene pagata dalle persone e è un prezzo molto alto. E quello che dispiace è che questa morte, che è successa meno di un mese fa, è passato purtroppo sotto silenzio dei media nazionali, perché poi a Terni se ne è parlato come problema di, diciamo così, di una persona che muore, ma dietro nasconde una confusione da parte di chi gestisce una fabbrica, e purtroppo è anche la premessa di quello che poi potrà essere. Io racconto nel mio libro, che è Inox, questo è il titolo, è un titolo un po' ironico, perché era uscito da 2 anni Acciaio della Vallone, quindi sarebbe stato il titolo perfetto per il mio romanzo. E allora io ho detto, scherzando, vabbè, ma a Piombino fanno l'acciaio al carbonio, che è un acciaio tra virgolette più povero, quindi da noi a Terni facciamo l'inossidabile, che è un acciaio, è il famoso 1810, quando sentite, no, le pentole 18 cromo e 10 nickel, e sono il bilanciamento della Lega. E ho scritto questo libro, l'ho scritto lasciando da parte la mia storia personale. Come avevo accennato all'inizio, racconto di una squadra di operai, tutte e 6 insieme. Il punto di vista è quello di una squadra, appunto, di lavoro, che inizia una giornata normale, c'è un incidente, e poi man mano nello scorrere del tempo si vede il passaggio di questo gruppo industriale a un altro gruppo industriale, a una multinazionale, a un'altra multinazionale, che ha solo uno scopo. Le multinazionali indeboliscono un territorio, lo impoveriscono perché non hanno alla base quello di arricchire un territorio e le persone che lavorano nella fabbrica, ma di arricchire poi quello che è l'azionariato, gli azionisti. E questo è uno dei mali, come è successo qua al GKN, come succede a Terni, come succede, mi sono appuntato il nome, però insomma, perché cambia continuamente, diciamo così, nome. Adesso si chiama Forvia Foresia, è un'altra fabbrica a Terni che fa automotive, marmitte. A Terni facciamo l'acciaio inossidabile, quindi vicino questo acciaio può essere trasformato in marmitte. Capite da soli che con l'avvento delle auto elettriche le marmitte forse non si faranno. E sono adesso in lotta perché ci sono stati 50 esuberi. Io ho un amico che ha il figlio che è entrato da circa meno di un anno. L'ho incontrato l'altro giorno e ho detto, ho sentito che hanno mandato via 50 persone. E dico, mi dispiace per Andrea, insomma, no, per tuo figlio. Dice, no, ma lui lavora. Dico, come, lui è entrato un anno? Dice, no, hanno mandato via più vecchi perché quelli più giovani costano di meno. Questo è una realtà, ben venga per i giovani, ma però questo, se questa è la mentalità, stiamo parlando di quell'impoverimento. La deindustrializzazione crea un impoverimento di un tessuto, perché, come è successo a me negli anni 80, per cui ero diplomato agli industriali, c'era la corsa, no? Perché tutti servivano i periti, vai con il perito, sia chimico, meccanico, io ero elettronico, e quindi poi facevo comodo per la fabbrica. Oggi avviene un altro processo, almeno nel mio territorio, ma penso più generalmente anche in altre zone d'Italia. È quello che i giovani sono indirizzati, non più a essere diplomati ma a laurearsi, in materie per cui magari non sono più portati, ma che hanno una spendibilità da un punto di vista di lavoro, per cui si studia quello che poi ti porta nel lavoro. Un impoverimento che fa la deindustrializzazione, oltre a a mettere in competizione gli stessi lavoratori, perché in un territorio in cui 10 lavoravano, 5 non lavorano più, si aprono 3 posti di lavoro, quelle 3 posti di lavoro c'è la gara al ribasso per poterle, no, essere occupati. Dicevo, l'impoverimento di un territorio deindustrializzato è anche questo, che poi i giovani studiano delle materie o delle lauree che siano delle discipline scientifiche, ingegneria o gestionale, qualsiasi altro tipo, ma poi che succede? Succede che poi il lavoro in quel territorio non lo trovano, e quindi vanno da altre parti a lavorare. E Terni è una delle città, la provincia che ha il più alto indice di persone che vanno, di giovani che vanno a lavorare all'estero. Io ho parlato abbastanza, quindi penso che mi posso anche fermare qua. Spero di non avervi annoiato. Poi magari, se ci sarà occasione, dopo parleremo anche di altre cose. Allora, quindi adesso torniamo in Toscana. Alberto Brunetti, lo sapete, è il direttore di questo festival, lui dice l'assemblatore del programma, però è nato sotto il segno dell'acciaio, ascendente amianto. Amianto fa letteralmente ridere in alcuni punti, io ho riso da sola in treno mentre lo leggevo, letteralmente piangere in altri. L'ho detto, è la storia di un operaio che racconta, cioè raccontata dal figlio che riscopre l'orgoglio di essere figlio di operaio. Alberto però è autore anche di molti altri romanzi, deciderà lui di che cosa parlare, anche di 108 metri a proposito di Piombino e anche di Troncamacchioni, da cui adesso vi leggo l'incipit. Troncamacchioni è storia di briganti, di minatori, di eroi, di poeti, di antifascisti, della Maremma indomita e ribelle, anche loro in qualche modo sconfitti dall'avvento del fascismo con la complicità della polizia, però non vinti, ma eroi del proletariato metallurgico toscano che resistono nei boschi a Troncamacchioni, che ho scoperto da lui che significa farsi strada nei boschi. Di prepotenza. Allora, l'incipit di Troncamacchioni. C'era una volta, 100 anni fa, una Maremma ribelle, sovversiva e indomita. Una Maremma diversa da quella di oggi. Una Maremma crognola, tetragone e armigera. Una Maremma proletaria, solidale e minerale. Quella Maremma i fascisti hanno provato a bonificarla. Ne hanno fatto una Maremma domesticata, ispezionata, spiata, diretta, legiferata, regolamentata, recintata, indottrinata. Una Maremma catechizzata, controllata, censurata e comandata. Una Maremma annotata, registrata, censita, timbrata, squadrata, postillata e impedita. Una Maremma riformata, raddrizzata e corretta. Una Maremma ammonita, fuoriuscita e confinata. Ma io vi canterò di quell'altra Maremma, la Maremma ribelle e indomita. Canterò allora l'armi e gli eroi, il sangue, il respiro grosso, la rabbia e l'ira funesta dei villici crognoli di Maremma. Narrerò le fughe tra i lecceti, gli scopeti, i castagneti, i forteti, col cuore in gola, le labbra spaccate, coi piedi gonfi dal freddo e le narici piene di tabacco. Vi dirò di carbonai impeciati che mangiano lecce e cagano carbonella, di carbonai che ceduano il bosco a cottimate di bestemmie, mentre il mulaio smacchia salmodiando sulla virtù della moglie del Granduca Leopoldo di Lorena. Alberto Brunetti. Ti dicevo di andare piano perché ci sono gli interpreti e Porrini che ci hanno da faticare, ecco. Allora, è sempre più complicato, in realtà anche tutto parte da un discorso che si fa passo dopo passo, in realtà attorno a queste storie operaie. Noi abbiamo qualcosa che ci sta scappando dalle pagine dei libri in qualche maniera in questi giorni, no? Che è fatto di corpi che abbracciano una fabbrica che la proprietà pensava come un luogo chiuso e recintato di produzione merci, e che qualcuno pensa come invece un luogo poroso, aperto alle comunità circostanti, di convergenza, di produzione sì, di merci, ma anche di produzione di saperi, di cultura, di memoria. E questo è quello che proviamo a fare con il festival, e questo è anche quello che bisogna provare a fare un po' con i libri. Io nei miei libri mi sono trovato in una situazione sempre più paradossale. Ho iniziato a scrivere Amianto, che era la storia della deindustrializzazione del corpo di mio padre, in qualche maniera. È una storia di formazione del figlio e di deformazione del corpo del padre. La deformazione di un manutentore, di un costruttore di impianti industriali. Maurizio avrebbe detto di un costruttore di nazioni, in qualche maniera, no? Era uno che andava a costruire fabbriche, a costruire impianti, che aveva percorso la geografia dei luoghi più inquinati d'Italia, luoghi che poi tornano continuamente sul nostro palco, no? Taranto, ad esempio, ieri, ma tutto il nord-est, il nord-ovest, scusate, il triangolo industriale, e poi ovviamente Piombino e Scarlino, che erano i due pilastri industriali attorno ai quali io sono cresciuto da ragazzino. E la cosa pazzesca è che mentre io sviluppavo, dopo Amianto, sono andato avanti, ho 108 metri. 108 metri è la lunghezza massima dei binari che venivano prodotti dalle acciaierie, binari ferroviari, perché erano una, diciamo, soprattutto si facevano binari ferroviari, che si producevano a Piombino, e che praticamente sono i binari su cui si passa in Italia ogni volta che si prende un treno, ma non solo in Italia, in qualsiasi altro paese europeo la maggior parte dei binari sono stati fatti a Piombino. E mi sono ritrovato appunto dopo Amianto a scrivere 108 metri, e ho chiuso 108 metri con la storia dello spengimento. È anche un romanzo, appunto un romanzo di formazione, racconta la fuga di un figlio di operai dal luogo che l'ha forgiato, le false speranze dell'ascensore sociale, la caduta dopo appunto il tentativo di spiccare il volo, la riscoperta dell'orgoglio working class in un viaggio in Gran Bretagna, dove lui entra nei piani bassi appunto della working class inglese, e dove ritrova l'orgoglio di far parte di questa storia collettiva, perché come si diceva, come hai detto tu, come ha detto anche Dario in questi giorni, no? Si scontra e incontra la storia di una working class che ha digerito in qualche maniera la sconfitta e che non si è data per vinta. E paradossalmente esce da un luogo di macerie, perché quel luogo che ha forgiato in qualche maniera un pezzo della mia esistenza, costruito tra questi due pinnacoli industriali, uno chimico e uno d'acciaio, stava diventando un luogo che produceva ormai macerie. E questo è il problema, appunto, e noi siamo circondati da macerie, i luoghi industriali. Pensiamo a cos'è Casale Monferrato, un posto da cui la proprietà scappa perché ha fatto i conti, sa che deve scappare perché ha avvelenato quel territorio, e se ne va lasciando praticamente i veleni che circolano, no? Sul Po. Tutte le storie industriali che noi ci troviamo ultimamente a dover raccontare sono storie di fuga del padrone. I padroni scappano come conigli. Questo è un paese in cui di lavoro chi fa il padrone licenzia o fa storytelling fantasiosi con cui cercano di raccontare a modo loro la realtà. Quindi sostanzialmente lavorano, costruiscono l'ufficio ambiente, il cui primo nemico sono gli ambientalisti. Cioè, questo è lo storytelling padronale su cui lavorano. Invece di produrre, spendono soldi per far fallire le fabbriche, praticamente. Le stesse fabbriche di cui sono i proprietari, a volte, si impegnano per farle fallire. E noi dobbiamo invece lavorare dal basso per reindustrializzare in una maniera diversa, in una maniera socialmente integrata, in una maniera ecologica, completamente diversa dal loro modo tossico, inquinante, avvilente di costruire. E il problema è che cercano appunto non solo di distruggere la loro presenza, non solo di cancellare la percezione che noi abbiamo della pericolosità dei luoghi in cui ci hanno fatto crescere, la loro nocività, l'inquinamento, ma cercano anche di cancellare di distruggere la memoria di questi luoghi. Hanno distrutto l'altoforno di Piombino perché non si doveva dimenticare, non è bastato chiuderlo, era troppo poco. Qualcuno poteva continuare a parlarne, bisognava anche solo distruggerlo fisicamente, e questo l'hanno già fatto. E contro addirittura pure gli archivi, cioè nel senso la percezione degli archivi, gli archivi è qualcosa che non hanno neanche interesse a tenere, cioè in questo momento noi, gli operai della GKN stanno riscattando il materiale archivistico delle lotte operaie di questo comprensorio, lo trovi in mezzo alla polvere nelle fabbriche abbandonate, capito? E quando da qualche parte c'è, capita che nemmeno la gente sa che ci sia, cioè spesso nemmeno quelli che dovrebbero curare quel tipo di patrimonio bibliografico ne sanno l'esistenza. Io questo libro qua, per esempio, Troncamacchioni, l'ho scritto grazie a memorie di minatori che sono state riversate in tutta una serie di archivi. Ma ti posso dire che nel posto in cui vivo le persone non sanno nemmeno che esistano queste memorie. Ecco. E il posto in cui vivo è un posto che ha perso, che ha dimenticato di abbracciare sostanzialmente le storie operaie su cui si è appoggiato, su cui si è cresciuto. E quello che stiamo facendo noi è l'esatto opposto in qualche maniera. Qui noi abbiamo ancora una comunità che cerca l'abbraccio con le storie degli operai e che se ne sente orgogliosa. Forse perdiamo, io spero di no, spero che vinciamo, ma se anche perdiamo, nessuno qui si è dato per vinto. Quello che io vedo sinceramente, e mi piange un po' il cuore quando sento parlare di Piombino, perché io vorrei che tutti avessero la forza e l'orgoglio dei compagni del CIG, dei Francini, però quando fai qualcosa a Piombino viene lui e poi altri, non solo la cittadinanza, ma gli stessi operai si sono girati da un'altra parte. Ecco, questo è il problema grosso, ed è un problema perché sostanzialmente per tanti, troppi anni ci hanno sconfitti nell'immaginario, ci hanno obbligati a usare le loro parole, hanno costruito un gergo aziendalista che noi dovevamo parlare come loro, ci hanno spinti, hanno colonizzato il nostro immaginario, ci hanno insegnato a dimenticare quell'immaginario conflittuale che generazioni di boscaioli, carbonai, minatori, poi metalmeccanici, poi saldatori, poi carpentieri in ferro avevano sviluppato. E la frattura è sicuramente quella cosa dei primi anni Ottanta lì, quella sconfitta in qualche maniera simbolica, perché non è stata certo la marcia dei 40.000, che figurati se erano 40.000, ma è qualcosa che era già arrivato a prima probabilmente. Te, quando a un certo punto ti direi, ci sono tante vertenze, no? come aperte purtroppo, ma non tutte hanno avuto la forza di lavorare con le parole e con l'immaginario attorno alla lotta, e questo è proprio quello che secondo me è il salto che la lotta della GKN ha fatto, perché non si tratta di far solo volantini o far solo manifestazioni, ma si tratta di avere e riscoprire e rendere in qualche maniera contagiose le tue parole, che non sono quelle del padrone. Nelle fabbriche intorno a cui sono cresciuto, le parole del padrone sono diventate le parole degli operai. Quegli operai hanno perso prima ancora, non devi nemmeno vincerli, sono sconfitti prima ancora di combattere, perché già loro parlano le tue parole. E se tu a qualcuno gli fai parlare la lingua del padrone, un inglese, una poetessa americana diceva che con le with the master tools you can dismantle the master house, con le parole del padrone non potrai mai smantellare la casa del padrone. E quindi sostanzialmente non c'è bisogno nemmeno di sconfiggere una classe operaia che ha iniziato a parlare le parole del padrone. E la differenza, e l'abbiamo sentite le parole ieri dei delegati degli operai, come sono suonate nella piazza davanti alla Casa del Popolo ieri. Ecco, con quelle parole lì tu stai tranquillo che non sei sconfitto, e ti dirò la verità, io penso che non saremo nemmeno vinti, perché noi saremo tutto davvero. Non c'ho voglia di parlare dei miei libri. E penso nemmeno Maurizio, però gli passo la parola. Allora, andiamo alla Spezia a questo punto. Maurizio Maggiani è autore... Andrò piano. È meno difficile del tuo perché è un po' meno toscanaccio. Maurizio Maggiani, autore di un romanzo meraviglioso che è Il coraggio del pettirosso, però noi qui stamattina portiamo Il romanzo della nazione, che anche questo a suo modo è la storia del padre e della madre, ma soprattutto di gente che ha creduto con le proprie mani di costruire una nazione. Però lo faccio dire al romanzo leggendovi questo pezzettino. Quanto ha lavorato mio padre per aver lavorato troppo? 12? 14 ore al giorno? Per quanto? Per 50 anni? Più o meno. Facendo i conti per bene, avendo cominciato a 12 anni ed essendo andato in pensione a 70, sono in tutto 58 anni. Più qualcosina ancora da pensionato a lavoretti qua e là per i vecchi conoscenti. Eppure, se 8 ore vi sembrano poche, venite voi a lavorare. La sapeva, e come? La sapeva. Dunque? Il bisogno. Certo, il bisogno. Ma a lui piaceva anche lavorare. Lavorare bene. Portarsi a casa qualcosa da aggiustare anche la domenica pomeriggio. Questa grande presa per il culo che il lavoro nobilita l'uomo, che il lavoro rende liberi. C'era scritto sulla porta di un campo di sterminio, non sui cancelli del paradiso. E lui ci credeva. Lui e il signor Trippi e tutti quanti loro. I lavoratori si sono messi in testa di costruire una nazione con le loro mani. Non è che speravano di farlo. Loro ci credevano davvero che l'avrebbero fatto. Ecco, vivere di sogni è un'utopia. Come facessero non lo so, ma era tutta gente che sognava mentre lavorava. E quello che avrebbero fatto con il loro lavoro era la loro utopia. E sono finiti all'istituto Giuseppe Mazzini, impacchettati nei pannoloni, rincretiniti dal lavoro, e più là del laghetto delle tartarughe non vedono nessuna nazione, non vedono niente, perché non c'è niente, semplicemente non c'è niente. E io sono qui, e sono un niente, in mezzo a questo niente, peggio di niente, agli occhi di un uomo che ha creduto nelle sue mani, io con queste mani che sembrano quelle di un pianista. Maurizio Maggiani. Io, se non vi dispiace, tralascerei il mio romanzo per parlare di un'altra cosa. Mi preme di più, e cioè per dirvi perché sono qui. Perché questa mattina mi sono alzato nel primo giorno di vera primavera e ho fatto un bel po' di strada, fin qui lasciando la fioritura dei ciliegi del mio giardino, e sono davanti a una fabbrica occupata. Sono tante le ragioni, e ve le elenco. La prima è poter dimenticare, se ci riesco, l'immagine dell'ultima fabbrica occupata che ho visto in vita mia. Era il 1982, la fabbrica erano le officine Mirafiori della Fiat. Io allora facevo il maestro di scuola, ero iscritto alla CGIL scuola, frazione e lotta continua, diciamo così, perché andavo per la strada a gridare lo slogan la CGIL a scuola, ma qui nessuno è fesso, la lotta di classe va avanti lo stesso. Eh sì, erano quei tempi. Ero iscritto alla CGIL e allora la CGIL negli ultimi tempi della vicenda della Fiat organizzava dei pullman da tutta Italia per andare a sostenere i picchetti degli operai davanti ai cancelli, perché gli operai della Fiat davanti ai cancelli non c'erano più. E io sono andato 3-4 volte a picchettare, e non avete idea della tristezza, della, sì, della tristezza, della sfinitezza dei pochi operai della Fiat che ancora erano lì. L'ultima volta che sono stato è stato il giorno della famosa marcia dei 40.000, che 40.000 per la verità non erano, erano forse nemmeno la metà. Comunque la storia, quella dei media, ce li ricorda così. E quella è un'immagine che porto ancora con me, ed è un'immagine che vorrei evitare che mi accompagnasse per il resto della mia vita. C'è un'altra immagine, ed è quella dell'ultima fabbrica che io ho fotografato nella mia carriera di fotografo. Io sono stato molte cose, nella vita sono stato anche quello. L'ultima fabbrica che ho fotografato è una fabbrica in demolizione, e cioè l'ILVA, l'ex Italsider di Genova, e ho documentato la sua distruzione, la sua demolizione. E anche quella è un'immagine di una tristezza e di una solitudine, di una sconfitta che non voglio portare con me per il resto della mia vita. E allora sono venuto qui perché qui oggi è come festa, è come vita, no? Siamo qui e non c'è tristezza, non c'è malinconia, non c'è nemmeno demolizione, no? Ho dato una sbirciata a dei meccanismi che sono ancora intatti e ho parlato con degli uomini e delle donne che sono ancora intatti e parlano di cose che riguardano la loro vita e non la loro sconfitta e non la loro demolizione. Io sono anarchico, figlio, nipote, pronipote di anarchici apuani, e dovrei essere l'immagine vivente della sconfitta, perché l'anarchia è sempre e comunque sconfitta nella storia dell'umanità che ricordiamo. Però c'è una frase che porto con me, ed è quella di un anarchico, in realtà un anarco mazziniano, cioè un anarchico repubblicano mazziniano. Anch'io sono di quella frazione lì, ve lo devo dire, poi ho le mie ragioni per esserlo. E gli si chiedeva della sua sconfitta, della sconfitta del suo pensiero. Ma lui dice: io non sono sconfitto. Non sono sconfitto perché per essere sconfitti prima bisogna arrendersi. E io non mi sono ancora arreso. E, no, lasciate perdere. Pensateci, no? Se siamo qui, se siete qui, se qui è ancora tutto così, se qui ci sono dei banchi dove si mangerà, dei cessi dove si piscerà, delle sedie su cui si parlerai e ascolterai, perché siamo ancora vivi. Io non lo so come finirà questa storia, ma ho anche un'altra certezza, e cioè il gran finale dei destini di ciascuno di noi, di ciascuna delle fabbriche, di ciascuna delle realtà, il gran finale ancora non l'ha scritto nessuno, mai, mai, mai nessuno è riuscito a scrivere il gran finale. E se c'è, scusate, perché c'è anche vento qua, io sono precario, sono cagionevole, e c'è un'altra ragione per cui io sono qui, è per non sentirmi solo. E qui io non sono solo. Perché io mi sento solo? Ah, si direbbe l'opposto, no? Ah, no, vado lì dagli operai perché sono soli. No, no, sono solo io, non gli operai. Sono solo perché io sono un lavoratore. Io sono un lavoratore. Il mio lavoro è scrivere. Ed è un lavoro della mente e del braccio, no? Tra l'altro più del braccio che della mente, perché le analisi condotte sulla mia mente dicono che sono nella norma ancora, e invece ho il tunnel carpiale, no? Per cui evidentemente la fatica maggiore la faccio pigiando sulla tastiera che pigiando sul cervello. Sono un lavoratore e credetemi, io soffro di una solitudine straziante, perché non mi riconosco in un collettivo come il sindacato, come il collettivo di Fabio. Non sono un lavoratore solitario. Quando ho provato nella mia nella mia esperienza. Io non ho molti conoscenti scrittori. Lui è il primo scrittore che vedo dopo anni. No, ma non è mica un vanto, no, i miei vicini, i miei amici sono chi sono? Sono uno che ha un'officina, un avvocato non proprio di successo, un lavoratore del sociale. I miei vicini di casa sono Giorgio, che ha le capre che cazzo mangiano sempre, ovviamente nell'erba del vicino, che è quella più verde, che è la nostra, no? E dall'altra parte c'è il vicino cattivo, anche lui un contadino. Capite? E mi trovo bene, no? Non c'è problema. Mi trovo bene e so parlare e a lungo discutere sul coleottero turco che sta invadendo la terra dove vivo e Giorgio è disperato perché gli mangia la vigna, no? Però non parlo di letteratura, nessuno di loro è interessato a parlare. E non sono interessato nemmeno tanto, lui ride come un pazzo, ma è una tragedia, credetemi, credetemi. Cioè, la tragedia della solitudine. Una volta ho provato a capire se facevo parte di qualcosa, per puro caso, leggendo un giornale locale avevo scoperto che i miei libri che, come avete sentito, parlano di cose così belle, interessanti, così importanti, così solidali, così, no? Così correttamente di sinistra, persino di sinistra estrema, no? Ecco, i miei libri così progressisti, così libertari, eccetera, eccetera, eccetera, venivano stampati in una tipografia, nella più grande tipografia d'Europa, insieme a tutti gli altri libri, peraltro. Comunque i miei libri erano stampati in una tipografia dove vigeva il lavoro schiavistico, va bene? Il lavoro schiavistico. Quella è la grafica veneta, la grafica veneta. Io avevo nell'agenda un solo, non c'avevo il suo, avevo un solo numero di telefono di uno scrittore che conoscevo da decenni e ho chiamato e ho detto: senti, ma dobbiamo fare qualcosa, sono i nostri libri, capisci? Facciamo stampare i nostri libri dagli schiavi. E lui mi ha risposto, è uno scrittore molto importante, molto più importante di me, di lui, di tutti noi messi insieme, e lui mi ha risposto: no, ma sai, non vorrei mettere in imbarazzo il mio editore, cioè non vorrei mettere in imbarazzo il mio padrone, no? Ecco, pensate se gli operai della GKN agissero senza mettere in imbarazzo il loro padrone, no? E lui continua a ridere, è una tragedia. Questo è il problema, il mio problema è questo, ed è anche il suo di problema, perché anche lui è un lavoratore della penna, della tastiera, scusate. E anche lui, no, il tunnel carpale gli verrà, continua a pubblicare, vedrete che gli verrà anche a lui. E questo è un problema grande, perché è anche un problema, se posso dirlo, specificatamente italiano. Io qui voglio spezzare una lancia, questa è veramente una dichiarazione pubblica importante, prendete nota. Io spezzo una lancia nei confronti di Bin Laden, perché io vorrei essere Bin Laden e farmi esplodere davanti al monumento di Manzoni, va bene? Manzoni è la rovina, è stato la rovina. Della, diciamo così, della classe lavoratrice intellettuale italiana. Quest'uomo, scusate, devo bere, poi me la prendo, perché capite, sono ancora. Il romanzo che lo ha reso immortale, il romanzo che ha formato decine di generazioni di studenti, promessi sposi, che cos'ha come morale? Che cosa ci insegna? Cosa ci dice? No? Facendone il riassunto. Che cosa ci dice? Ci dice: popolo, stai bravo, ti agiti, vedi che quando ti agiti fai dei casini e basta. guarda, stai lì e vedrai che se tutto va come deve andare, la Divina Provvidenza ci penserà a lei. Questi sono i Promessi Sposi, giusto? No? E noi ci siamo comportati in questo modo, cioè noi siamo i prosecutori dell'opera del Manzoni. Questo è il vero problema. Pensate a una cosa, pensate che negli stessi anni che Manzoni scriveva i Promessi Sposi, Charles Dickens scriveva Grandi Speranze, va bene? Grandi Speranze è uno dei tanti romanzi di Charles Dickens. Tra parentesi, come forse qualcuno ricorderà, si pregiava il Manzoni, l'Alessandro Manzoni, si pregiava di dire con grande nonchalance: no, io scrivo, mi rivolgo ai miei 33 lettori, no? Charles Dickens si rivolgeva alle sue centinaia di migliaia di lettori. E chi erano quelle centinaia di migliaia di lettori? Erano la classe operaia inglese, erano i commessi, erano le lavandaie, erano gli impiegati, erano i lavoratori delle fucine, che compravano a dispense, perché non avevano certi soldi per comprare libri grandi tutti insieme, a dispense i suoi romanzi pubblicati in appendice per l'appunto delle riviste settimanali, e se li leggevano insieme, li leggevano, c'era uno che leggeva, gli altri lavoravano e poi si davano il cambio. È un'ottica un po' diversa, anche perché i romanzi di Charles Dickens non fanno mai cenno, ho notato e me lo sono anche ben trascritto, non fanno mai cenno alla Divina Provvidenza, mai, no? E allora pensate a questo, pensate il momento di maggior successo. No, io per parlare da dove vengo, capite? Perché è vero che vengo da un operaio, mio padre era un operaio, da un contadino che era mio nonno, mia madre una magliaia a domicilio, di quelle, insieme alle sue sorelle e le mie zie, di quelle lavoratrici che hanno fatto il miracolo italiano, no? Lavorando in nero a casa 14 ore al giorno. Però se vengo di lì, da uomini e donne che hanno davvero fatto questo paese con le loro mani, e lo hanno fatto questo paese, perché, vabbè, ma questo è un altro discorso, ma, no, io non voglio prendervi del tempo, ma voglio puntualizzare questa cosa di Manzoni, perché non lo sopporto, va bene? Allora, mentre... Quindi Charles Dickens non scriveva della Divina Provvidenza, ma parlava del sistema giudiziario classista, della giustizia inglese, parlava degli operai, gli orfani, va benissimo, tutto a posto. Allora, qual è il punto massimo della carriera di Alessandro Manzoni? Perché è lì il punto, no? Sono arrivato. Quando è che Alessandro Manzoni è arrivato? Quando il re, quel boia, peraltro, gli consegna il seggio senatoriale, lo elegge alla dignità di senatore. Questo è l'intellettuale, no? L'intellettuale italiano che ha raggiunto il suo massimo successo è il riconoscimento del potere e la consegna di un seggio, di un seggio senatoriale. E io credo che molti dei miei colleghi più bravi e più esperti a questo punto, no? Va bene? Qual è il livello più alto del successo di Charles Dickens? È una tragedia vera e propria. E cioè, il giorno che a Boston, al porto di Boston, arriva il piroscafo con l'ultima puntata di Grandi Speranze, la calca di popolo per accaparrarsi quell'ultima puntata, cosa fa? Fa cadere in mare e morire affogati due di quelli che cercavano l'ultima cosa. È una tragedia, vero sì che è una tragedia, ma ci dice due cose diverse, no? Ci dice di gente che crede, di lavoratori, perché quelli erano, di lavoratori, di proletari, che pensano, leggendo quella storia, di trovare se stessi, di trovare memoria di se stessi, di riconoscersi e di riconoscere, di vivere attraverso quelle pagine, da una parte, e dall'altra quello che, no, il potere che assume a sé, che eleva a sé l'intellettuale. Questa è la differenza. E questo è quello che ha determinato e determina tuttora la condizione di isolamento e di... Insomma, io non riesco a immaginarmi nella mia solitudine, perché un operaio, un lavoratore solo non è niente, non è niente. E questo è scritto nel motto del vostro festival, ed è scritto sulla facciata della Casa del Popolo più antica d'Italia, che è Reggio Emilia, e c'è scritto: uno non sono niente, insieme siamo tutto. E allora insieme a voi, perché qual è il mio ruolo? Perché sono qui? Quale può essere il mio ruolo? Io non è possibile che io sia un elemento fondamentale della lotta operaia e del riscatto del proletariato mondiale. No, però una piccola parte ce la posso avere. Ed è la parte che aveva Charles Dickens, solo che io non sono bravo come lui, no? Ma nemmeno lui è bravo come Charles Dickens, ve lo dico, no? E nemmeno lui. E siamo già in tre che non sono bravi come lui, no? Solo qua, pensate quanti ce ne sono intorno. Qual è il mio piccolo ruolo? È quello del testimone. Perché è stato già detto, l'hanno già detto bene loro, la tragedia nella tragedia di una sconfitta è proprio quella della smemoratezza, della cancellazione della memoria. La classe operaia non esiste, no? Io l'ho già sentito dire diverse volte, ma perché è la formula magica, non esisti, quindi sparisci. Ma non è vero che non esiste, c'è, certo che c'è, perché io la mattina vado a trovare il mio amico nella sua officina e lì ci vedo lavorare 50 operai che stanno forgiando il bronzo, no? Perché quando vedo passare per strada in bicicletta un consegnatore di cibi, io quello vedo, no? Ma come vanno avanti le cose, no? Chi è che fa le cose? È vero che ci sono le macchine, è vero che lì ci sono milioni e milioni di robot, però c'è ancora chi usa la mente e le braccia per far andare i robot, per far andare le biciclette, per far andare le fucine, per far andare gli uffici, per far andare le scuole, no? E sono lavoratori anche gli insegnanti. E infatti un altro degli slogan che urlavo per le strade quando facevo il maestro: come mai sempre in culo agli operai, ora i tempi sono cambiati, anche in culo agli impiegati. Lo dico se qui c'è qualche impiegato, no? Va bene. Ma però cosa applaudite? È una tragedia, no? Allora, testimoniare. Esistiamo perché abbiamo un racconto, perché abbiamo parole, perché abbiamo una lingua, perché abbiamo una voce, perché abbiamo uno sguardo. Esistiamo per quello. Non potete cancellarci finché raccontiamo la nostra storia, finché noi siamo la nostra voce. E io con voi, perché sono un lavoratore, non sono uno che viene da lontano per raccontare di voi. Io sono uno di voi che racconta di voi, e raccontando di voi racconta anche di sé. Tutto qui. Allora, siamo... massimo un quarto d'ora, 10 minuti. Quindi se c'è 1/2 domande chirurgiche, ok. Come chirurgiche? Chirurgiche, non abbiamo tempo. Sul tunnel del Carpale, esatto. È l'argomento. Però dovete venire qui. Operazione Carpale. Forza, ma ci vuole la balletta. Grazie, sono Silvia, vengo da Alessandria, un territorio martoriato non solo per l'amianto ma anche per i PFAS. A Solvesorexis della città, insomma, sta creando gravissimi problemi di salute da decenni. In realtà volevo soffermarmi per una piccola riflessione rispetto a alcune parole che sono state usate oggi e che secondo me vanno un po' sciolte. È stato detto di genitori che fanno studiare i figli, che poi fanno i lavapiatti a Bristol, è stato nominato l'ascensore sociale, le false speranze che regala le persone. Io penso che dobbiamo pensare, e credo che qui siamo più o meno tutti d'accordo, che i lavoratori stanno tutti su una grande pianura molto ampia e che si guardano tutti negli occhi per portare avanti la lotta, e che chi studia non costruisce ascensori e piani sociali in cui al piano più alto stanno l'elite e sotto stanno i lavapiatti. Ricordo solo la poesia bellissima che ieri ha letto, la sua poesia Cleopazzo sulla sua esperienza di lavapiatti a Bologna. E come è stato detto benissimo ieri da Cataldi, ogni lavoratore, ogni operaio è fondamentale tanto quanto un ingegnere, un'ingegnera, un medico, una medica. Io sento molto spesso nel marketing dell'università, dei centri studi, parlare di ascensore sociale. Trovo che sia veramente un concetto, cioè sono parole che stanno avanti a dei concetti che assolutamente dobbiamo combattere e superare. Sì, volevo precisare quando Eliana ha usato quell'espressione di genitori operai che fanno lavorare i figli e vanno a fare lavapiatti a Bristol, stava semplicemente parlando di me, cioè che perché ho fatto lavapiatti a Bristol. E pulivo anche cessi, insomma, quindi può essere anche peggio. Sono Luca, vengo da qui vicino. Un paio di cose. Primo. A mio modesto avviso, la sconfitta operaia in Italia non è la marcia dei 40.000, non è la marcia dei 40.000, ma la repressione del movimento del 77. Che hai convocato questo protagonista? Il PC. Che ha visto protagonista il PC. Come repressore dico, Come repressore dico, Questo è bene saperlo e ricordarcelo tutti. Questo è bene saperlo e ricordarcelo tutti. Colgo questa occasione che non capita tutti i giorni. Colgo questa occasione che non capita tutti i giorni. Per portare a conoscenza. Per portare a conoscenza. Di compagne e compagni i problemi dei disabili in particolare coloro che lottano per una vita indipendente. in particolare di coloro che lottano per una vita indipendente. Non è vita solitaria, naturalmente. Che non è vita solitaria, evidentemente. Come vedete, io anche per venire qui per parlare. Come vedete, io anche per venire qui e per parlare. Quindi per esprimere il mio pensiero. Per esprimere il mio pensiero. Ho bisogno dell'aiuto di altre persone. Ho bisogno dell'aiuto di altre persone. Ecco. Ecco. Non abbiamo mai soldi sufficienti per pagarci le persone. Ecco, non abbiamo mai i soldi sufficienti per pagarci le persone. La regione toscana. La regione toscana. Tra parentesi di centro-sinistra. Tra parentesi di centro-sinistra. O di cosiddetto centro-sinistra. O di cosiddetto centro-sinistra. Non solo ci dà pochi soldi. Non solo ci dà pochi soldi. Ma ultima, ma ci ha ulteriormente complicato la vita per averli. Ma ci ha ulteriormente complicato la vita per averli. Poi, ultimissima cosa. Poi, ultimissima cosa. Se qualcuno vuole approfondire, io qui con me ho 5 copie del mio libro. Se qualcuno poi vuole approfondire, io ho qui con me 5 copie del mio libro. Basta. Basta. Allora, grazie, grazie anche per gli ultimi due interventi, non credo fossero due domande ma due testimonianze importanti, quindi visto che ci dicono che dobbiamo chiudere i tempi, io fatemi per un minuto riprendere il mio ruolo da sindacalista e quindi ringraziare tutti e tutti, anche quelli e quelle che da stamattina presto hanno ripicchettato tutto per non farci volare via dal vento, e attraverso questo lavoro che anche questo dibattito è stato possibile, anche tutto il festival, quindi grazie a tutti e a tutti quelli che ci hanno lavorato dietro. E un'ultima cosa, ieri abbiamo fatto un corteo bellissimo. Io all'inizio, quando è partito il corteo, ve lo confesso, mi sono commossa, non riuscivo a cantare la canzone perché mi veniva da piangere, perché come credo tante e tanti di voi, me lo ricordo bene quel 9 luglio del 2021 qui davanti, sono passati quasi 4 anni e quegli operai oggi hanno una lettera di licenziamento in tasca. Non hanno nessuna intenzione di darsi, né per sconfitti, né per vinti, né per rassegnati. La lotta di GKN è una lotta, una vertenza operaia, ma è anche un movimento per la giustizia climatica, una proposta di legge regionale, un piano di reindustrializzazione, è uno spettacolo teatrale, è una canzone, è un festival di letteratura, cioè è quell'immaginario simbolico che vuole raccontare la lotta e la classe operaia proprio per non arrendersi. E quindi è difficile non commuoversi, forse bisognerebbe avere il cuore d'acciaio dell'amministratore delegato di raccontato nel libro di Eugenio, ma noi magari siamo d'acciaio fuori, come dicevo, di quei compagni di Piombino, ma il cuore ci batte ancora. E oggi è davvero il primo giorno di primavera, loro sono l'inverno, noi siamo la primavera e fin qui, almeno fin qui, abbiamo vinto anche il vento. Grazie a tutte e a tutti.